Ah, buongiorno Nicoletti. Io volevo semplicemente dire che non sono d'accordo col primo ascoltatore, nel senso che hai 70 anni, guidi un camion, è una cosa tua. Vai su un tetto, è comunque una cosa tua. Hai un figlio, è una responsabilità. Una sfortuna a tutti e due i genitori nonni, chiamiamoli genitori nonni, genitori anziani, questo qui può rimanere da solo da un momento all'altro, non c'è nessun paracaduta. Ma quindi qual è il limite secondo lei a questo punto? La natura. La natura, senza, che vuol dire la natura? L'aiuto, no, senza l'aiuto. Scusi, ma allora faccio un esempio. Una coppia con lei cinquantenne e lui sessantenne, fanno l'amore. Lei non sospettava che fosse, che rimanesse ancora qualche residuo di ovulazione, e fanno un figlio. La natura ha fatto ci il sta. Suo. Ci sta. La natura fa. Basta che non fa del... L'importante è non fare. L'importante è che nasca da una scopata, ma non nasca da qualche forzatura. Ecco, questo è il problema. Esatto. Vabbè, è il suo punto di vista. Questo è il suo punto. Lo rispetto. Mi fa un po' sorridere, ma mi sta bene. Velocemente, Giovanni. Buongiorno a tutti. Vorrei intervenire semplicemente in questo modo, permettendo che chiunque potrebbe essere in grado di crescere bene un figlio, purché lo faccia con amore. L'unica domanda che mi pongo e che giro a voi tutti è questa. In tutta questa trasmissione ci siamo chiesti i diritti dei genitori, sostanzialmente, di avere dei figli, dentro quale età. Ma io pongo un'altra domanda, se è il diritto dei figli, cioè qual è il loro diritto di avere dei genitori, di quale età? Nel senso, a me pare ragionevole. Sì, la sigla mi porta via. La sua domanda è chiara, le rispondo in maniera velocissima. Il diritto dei ragazzini è di avere comunque un genitore che si occupi di lui, che gli voglia bene, che lo porti possibilmente in maniera dignitosa verso l'età adulta. Non farei un problema dell'età, perché altrimenti dovremmo dare un numero, e il numero ancora non è uscito. Qual è il numero esatto? Non si sa. Oggi abbiamo deciso di parlare di bolle. Le bolle, quei corsi di borsa dei mercati prendono il volo, ci sono quotazioni mostruose, bellissime, entusiasmanti, e poi tutto d'un tratto, pam, puff, e arriva la fregatura. Insomma, fregatura. È un po' un serpente corallo, diciamo la verità. Direi che è proprio crudele come fine. Dietro la bolla spesso c'è una balla, con licenza parlando. Perché sennò non crescerebbero così tanto i corsi borsistici. Magari c'è un eccesso di valutazione del titolo. Quello. All'inizio, quando viene attribuito un prezzo da un advisor. Il serpente corallo di Stefano Elli, Marco Lo Conte e Mauro Meazza. Ogni sabato alle 9 su Radio 24. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Mi piace ricordare quelli che furono i momenti di più profonda blasfemia della trasmissione Melog, e sicuramente quello in cui toccammo le punte del disaccordo generale, corale, condiviso di tutto il nostro pubblico, fu quel giorno che cercammo di dissacrare la festa più sacra per gli italiani, l'orribile, temibile, melenza, mielosa e falsa festa della mamma. Perché la mamma è sadica, signora. La frase preferita della mamma è: ve ne accorgerete quando non ci sarò più. È una tragedia, signore mio. Lo sport preferito della mamma è quello di farti venire i sensi di colpo. Tu la chiami al telefono e dici: pronto mamma, come stai? Lei ti risponde: chi parla? Chi ti dice: mammina, cazzarola, tieni un figlio solo, chi ha da parlare? La mamma è capace di dire cose inenarrabili. Ho i brividi, forse ho la febbre, mettiti il golf. Dici: mamma, mettetelo tu, ma che può avere? La mamma è capace di dire: cambiati la mutanda, che se vai sotto un trattore e ti portano all'ospedale. Che figura ci facciamo? Ma come arriva a ragione? Che tu dici: mammina, già quando lo vedo arrivare da lontano il trattore, eppure se tenga la mutanda pulita, diciamo, no? Se ne va tutto il ben fatto. Ma ora che mi portano in ospedale, la mutanda si è disintegrata, mammina mia. Non la trova più manca la polizia scientifica, cerca di capire, mammina. Infatti gli attentatori, gli uomini bomba, quelli che vanno con le cinture esplosive, si mettono 15 paia di mutande, evidentemente un motivo c'è. Giobbe Covatta mette il dito nella piaga, fa quello che difficilmente si riesce a fare, perché tra i tanti miti intoccabili che esistono nel nostro paese, la mamma è il più resistente di tutti. Nessuno può parlare male della mamma, figuriamoci. Si parla male della mamma soltanto, si parlava perlomeno, sul lettino dello psicanalista, ma è come andare dal confessore. cuore. Poi apertamente baci, abbracci, che bello. Matteo da Rimini, buongiorno. Ciao Gianluca. Niente, io sono un 27enne, vivo ancora da bravo mammone con i miei genitori, quindi con mia madre. Niente, per quello che riguarda la mia esperienza, mia madre, rispetto allo stereotipo della madre, al 200%. Cosa le dà in cambio del fatto che giorno per giorno ormai le stia attaccata e le succhi ogni possibilità di avere una sua vita indipendente? Cibo bucato ben fatto, copertine, esatto, e lenzoline fragranti. Sono quelle cose, Nicoletti, che è difficile rinunciare. Vada avanti, poi descriva come la seduce sua madre ogni giorno. La mattina, si alza la mattina, dove vede la presenza della mamma? Subito, appena alzato. Appena apro il frigorifero, lei sente il rumore del frigorifero, si apre, hai visto, c'è la marmellata pronta, cioè io non faccio in tempo a starmi ancora, a togliermi le caccole dagli occhi, che lei già ha un pensiero per me, lei mi sveglio prima io, però comunque sia lei già attiva in questo. Questo naturalmente le fa pensare che nessuna moglie, nessuna compagna, nessuna fidanzata farà lo stesso, mai. Esatto. Quindi lei rinuncia in pectore al pelo tentatore, rimanendo nel caldo alveo materno. Ma sì, io il massimo che ho fatto è stato bloccare mia madre su Facebook, ecco, questo è stato il primo passo. Beh, poverina, perché aveva diritto anche di vedere i fatti suoi su Facebook, no? Ma no. Andando avanti, la sua linda cameretta naturalmente se ne occupa sua madre. Se ne occupa la donna, io sono doppiamente fortunato. Quindi c'è anche una donna che però, è sotto le direttive della madre, quindi come fosse un'appendice di sua madre, quindi. Esatto, è il braccio armato di mia madre, esatto. Matteo da Parma. Sì, la mia è una storia un po' diversa. Io vivevo con questa madre che aveva ereditato da sua madre la mania di avercela sempre con gli uomini di casa. Tant'è vero che mio padre e mio nonno erano sempre fuori a lavorare. Mica scemi. Ma io l'ho capito dopo. E quindi le spese le faceva tutte lei, povero bambino innocente che stava in casa. Ma allora, mia mamma era divisa tra il femminismo... No, quindi mi insegnava che le donne vanno trattate con rispetto, ma in questa descrizione del rispetto che va portato alle donne andava al parossismo, arrivava al parossismo. Tipo stendersi per terra in mancanza di uno zerbino e farti pulire le scarpe, queste cose qua. Alla fine il risultato è diventato quello. Io me ne sono accorto quando sono cresciuto, avevo da un lato con le ragazze un po' l'atteggiamento dell'Arthur Fonzarelli, no, del Fonzi, però da un altro poi nei rapporti vedevo che ero sempre... la parte che in un qualche modo subiva, cioè era una specie di principe azzurro. No? Ma lo sa perché le mamme in questo sono terribili. Insomma, lentamente, senza che lei se ne accorgesse, l'ha riprogrammata. L'ha programmata a essere schiavo delle donne. Perché? Ma è così. Caro mio. Quando io me ne sono reso conto e ho rotto l'incantesimo, poi anche lei ha cominciato. Infatti adesso... Si è rivoltata come un'arpia dopo, naturalmente. Io mi sono, io ho divorziato adesso, mi ricordo la volta in cui ero per strada con la mia ex moglie, al culmine della tensione tra noi, e istintivamente ho sbagliato, invece di chiamarla per nome l'ho chiamata mamma, lì ho capito. Lo so, è così, sono delle ferite che a me non si chiuderanno mai più, l'importante però è esporre ogni giorno la sindone del nostro frastagliato rapporto materno e prenderne atto, coraggio. Marina, buongiorno. Allora, la scuola mi era fatta diventare un incubo. Logicamente. Perché c'era una ragazza nel mio palazzo che era molto studiosa, io un po' meno, per cui ogni volta che prendevo un voto il paragone era: che cosa ha speso la ragazza lì? Lo sa perché la deve scoraggiare a studiare, emanciparsi, fare un lavoro, perché lei, la sua condanna doveva essere fare la serva, la badante e la cambiatrice di pannolone di sua madre quando sua madre diventava vecchia. Quello era il progetto della mamma. Che presso poco è, l'ho detto. È quello che è accaduto. Presso poco. Purtroppo. È ancora molto in gamba, però vivo con lei perché mi è mancato mio padre. Ma che vuol dire, scusa, è mancato suo padre? Lei la sua vita la può fare lo stesso. È mancato il marito a sua madre, mica lei le è mancato nulla. Ma quanti anni ha? Lasciarla sola. E come si fa? Si lascia sola? Che succede? Ma uno ha il senso del dovere. Ma no, il senso di colpa, non è il senso del dovere. Ho il senso di colpa perché è riuscita a inculcare molto bene il fatto che noi figlie l'abbiamo delusa. E quindi lei ancora spera fino all'ultimo che sua madre sul letto di morte, l'ultimo fatto, dica: figlia mia, finalmente non mi è delusa. Questo spera. Non lo so. Ma non è meglio che si compri una bottiglia di vodka, se la beva se ne vada di casa e si viva la sua vita, no? Resti lì, Marina, Marina, io devo lasciare la linea, mi sembra adesso, no? Sì, devo lasciare la linea. Resti in ascolto, che la sua storia è paradigmatica, come si dice. Lei è la tipica donna massacrata da una madre, ma ancora ha qualche cartuccio da spararsi, è salvabile. Quindi vorrei in questi pochi istanti tentare di salvarla. Ferma un attimo, la prendo tra poco. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Ma com'è che si capisce questo limite? Vabbè, sentami, vabbè, qua non ci sta nessun limite, nessuna diplomata e cosa, vabbè, tu devi uscire, ti devi salvare, vabbè, chi se ti hanno chiuso in questo museo, qua, sentami, tu te ne fui a casa, vammi a la strada, tu che femmina, vai a rubare, fai quello che vuoi, mammina ti mandano un manicomio a te, ti fai urlare un manicomio, vabbè, tu esci e fai... Ma mammina dice che io ho il complesso nella testa. E fosse di, quali completi? Tu tieni l'orchestra intera, in capo, Robè, tu fai qualcosa, esci. Mammina! Oh, guarda mammi, io faccio per te, a me come non importa, vai con manicomi, non vai, ma passa manco per la capo. Mammina! Oh, Robè! Mammina! Mammina! Ma fanculo, tu e mammina! Te l'ho già detto, parliamo male delle mamme, naturalmente, si è alzato il coro delle vergini vestali, toccate la mamma, mi dicono hai avuto un'infanzia difficile, no, un'infanzia bellissima, spensierata, fantastica. Nicoletta è stato mai in terapia, ne avrebbe avuto molto bisogno, lo dico per lei, quanto è altruista, deve avere una vita molto triste, per non dire squallida, ma figuriamoci, una vita piena, difficile se volete, ma piena di soddisfazione, di difficoltà, ma sempre con la voglia di superare le difficoltà. Senza difficoltà sarebbe stata una vita triste. Non pensate alla mia vita solo perché parlo male delle mamme, basta, desacralizziamo questa mamma. La mamma è intoccabile, vedete, vi dà fastidio, non si può toccare la mamma. Qual è il merito della mamma? La mamma ti mette al mondo, ti mette al mondo perché qualcun altro l'aveva messa incinta, non è che sono io che ho determinato di essere messo al mondo alla mamma. La mamma ti partorisce con dolore, e vabbè, speriamo venga un tempo in cui le mamme non dovranno più partorire con dolore, ma già l'epidurale fa miracoli da questo punto di vista. Nessuna mamma dovrà più vessare il figlio dicendo mi hai squarciato il ventre per metterti al mondo, tutta la vita ho lavato mutande e calzini e adesso queste mani e con le piaghe e geloni chi me le ripagherà che mi lascia mio marito? Con le mamme se ne stiano un po' tranquilline, fanno i figli benissimo, l'hanno fatti che devono fare o l'hanno fatti perché non sono state attente e l'hanno fatti lo stesso, comunque se una volta l'hanno messi al mondo possono anche evitare di far pesare su questi ragazzi il fatto che loro sono le mamme. Le mamme sono così qualcosa, è la matrice di un essere umano, questa è la mamma, l'incubatrice di un essere umano, è la fabbrica dentro cui il genere umano si propaga, ma questo non deve essere una sorta di piaga perenne che segue gli umani per tutta la loro esistenza. Marina? Sì? Stavo concludendo con lei, visto che vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Abbiamo capito che lei ha una sadica che ancora la tiene dentro casa a 50 anni a occuparsi di lei. Ma lei riesce ad avere una sua vita personale, privata, affettiva, emotiva? Diciamo che comunque vita affettiva non, al momento non mi interessa. Non interessa che sua madre l'ha castrata da questo punto di vista, scusi, le interessa? No, perché ho avuto 3 compagni, ma vedo che non sono fatta per vivere con gli uomini, per cui... Ma mi scusi Marina, con una madre del genere vicino, quale uomo potrebbe sopportare una donna che ha un'ingerenza così forte nella sua vita? È vero? No, ma veramente sono io che non sopporto di vivere con un uomo. Lo so, perché sua madre l'ha decondizionata. Solo una cosa, poi la lascio in pace. Sì. Quanto ha avuto ingerenza sua madre nei suoi rapporti con gli uomini? Non lo so. Non lo so, come non lo sa? Non ci ha mai, ci pensi un secondo, scusi, questi uomini con cui lei dice che ha avuto storie finite male, e tutti abbiamo avuto storie finite male, perché storie finite bene sono quelle quando uno poi non se le ricorda più, perché è come averci un'altra mamma vicino o un altro padre, uno sta lì, c'è una persona vicino, esiste, fine. Sua madre, quanto ha minato alla base il rapporto con gli uomini? Diciamo che con il primo marito è stata una cosa che volevo andarmene via da casa, per cui ho fatto in modo di potermene andare via da casa sposandomi, è stato perciò un matrimonio disastroso per quello. Condizionato alla madre, come dire, io esco dal lager, mi butto dentro, che ne so, una discarica, tanto è meglio del lager, è la stessa cosa. Forse sì. E vabbè, il secondo marito? Il secondo compagno ricordava troppo mio padre dopo un po', e poi comunque era uno che pensavo potesse piacere a loro. Ah, quindi ha scelto uno che potesse piacere a sua madre? A lei e a mio padre in generale, effettivamente. E quindi lei non ha mai fatto una scelta di suo piacere, sempre per far contenti quei due mostri che c'ha per casa? No, l'ho scelto io, poi vabbè, finita la cosa, siamo molto amici, ci vediamo, ci sentiamo. Si è rotto le scatole, uno può averci una donna con una madre attaccata dietro sempre, è così, non ha potuto tagliare con sua madre. Vabbè, Marina, in bocca al lupo, spero che sua madre si innamori di una truffa amorosa, se ne parta per il Senegal, non so dove, e lei avrà possibilità di vivere questo ancora squarcio di vita attiva e reattiva da sola, spero per lei. Agnese. Buongiorno Nicoletta, lei era l'ascoltatore. Sì. Volevo più che spezzare una lancia verso altre mamme che non penso, almeno io. No, oggi non ci sono assoluzioni. Non voglio sentire parlare bene delle mamme, ne parleranno tutti. Assolutamente. Voglio semplicemente dire che i ragazzi, anche io ho avuto un percorso tipo la radioascoltatrice prima, quindi non mi voglio ripetere. Faccio un esempio di un atto particolarmente crudele. Arrivava il papà e quindi si riferiva a tutto ciò che era accaduto e picchiava. E insomma iniziavano a volare. Mio padre poi era anche non favorevole, non era molto portato a questi tipi, a questi metodi di educazione. E col tempo, e quindi non era nemmeno capace a picchiarla in maniera scientifica, quindi la picchiava male. Stava anche male dopo. Agnese, faccia parlare. Due piccioni con una fava. La figlia pigliava le botte e il padre i sensi di colpa per picchiare la figlia. Questo è nei percorsi della mia vita, nelle scelte poi che ho fatto, finché non mi sono fermata, ho detto aspetta un attimo, io adesso ho figli e le dico che li lascio in pace, li seguo sempre da lontano, dico addirittura di svuotarsi le tasche dei pantaloni, dei giubbini, delle maglie, perché non voglio, prima di lavarli, trovare qualcosa che li possa mettere in imbarazzo o che non vogliano che io trovi. Le pulizie nei cassetti che si fanno ogni tanto li facciamo insieme, loro svuotano, controllano tutto e poi io vado lì e vado a sistemare. Quindi lei sta parlando dell'altra generazione, cioè il trauma che ha creato in lei l'istinto della capo di Lager, in qualche maniera cerca di arginarlo nei confronti dei suoi poveri figli. Ed è proprio un appello quello che io vorrei fare adesso, lasciamoli stare, cuciniamo solo perché va cucinato, una sola cosa, una direttiva tassativa va data ai figli, sceglietevi l'ospizio, la casa di cura dove volete andare quando non siete più autonomi e lasciateli stare. Sì, anche no, può anche andarsene in un paese esotico, oggi sono bei posti dove può andare, invece andare... Dico, se non si è autonomi, se non si è autosufficienti, non bisogna far leva assolutamente e non si dice quello che si fa per i figli, non si dice quello che devi fare e basta. Questa è un'ottima regola, i figli non vanno appesantiti con l'idea di dover pensare al futuro dei genitori, sennò le generazioni finiscono ingabbiate in un unico grande ospizio mentale. Paola, buongiorno. Buongiorno, Nicoletta, è piacere di sentirla. Senta, io volevo dirle che alla bella età di più di 60 anni ho capito che io sono sempre stata succube di mia madre. Io per lei, ho sempre straveduto per lei e anche cercando magari un po' d'affetto da parte sua. E lei inculcandomi sempre un discorso di senso del dovere, di rispetto. E allora io sono sentita sempre una bambina responsabile, anche di fare anche le cose che non mandavano di... Scusi Paola, posso dire una cosa? Perché lei ha 60 anni, lei? Ha 61 anni. Ma perché parla lei come una vecchia, più giovane di me? Ma scusi, ma io che dovrei dire allora? C'ho già un piede nella fossa. Come se la vita fosse finita. Molli questa vecchia infame che l'ha rovinato la vita. Questa vecchia non c'è più. Ringrazia la Madonna che l'ha fatto il miracolo, scusi. E ancora però, ci pensa. Ma queste cose ti rimangono addosso, Nicoletti. Ma perché no, tu ripensi, perché ci sono stati tanti discorsi, anche di cose importanti, tipo un discorso ereditario, di famiglia. Lo so, ma a un certo punto deve pensare. è più utile salutare, a scannarsi su chi si divide il pitale della nonna, chi se lo prende, non lo prendi, non lo prendi tu, o vivere la propria vita un pochino più serenamente. Faccia quell'operazione salutare che consiglio a tutti, nella quale mi sono molto impegnato, che è lo sfamiglio. Si alza una mattina e dica: io non sono famiglia, sono solo al mondo, non ho famiglia, sono un trovatello, sono nato in questo momento. Vedrà che poi si sentirà meglio e non vedrà più né sorelle né mamme. Federica. Sì, buongiorno. Finalmente si sdogana questo parlare sempre bene delle mamme. Per fortuna. C'ho un minuto però, c'ho un minuto. Io le do ragione. C'ho un minuto, dica la sua. Niente, anche la mia è rimasta incinta di me, per sbaglio, a 17 anni e me l'ha fatto pesare tutta la vita. Ma io ho capito, tutte le scopate andate a male delle madri devono pagare i figli, qual è il problema? Vabbè, sì, è pazzesco. Purtroppo l'ho pagata cara perché e come io c'è, figlia mia? Ancora. Ma come diceva, figlia mia, sei nata e non dovevi, cosa le diceva? Tipo seno cadente, una volta che gliel'ho chiesto, io avevo 6 anni, lei 30, colpa tua. Perché colpa tua, scusi, tua, ma le mutande, scusi no, vorrei essere crudo, ma le mutande se le tolte sua madre, mica gliela tolte lei, il giorno che infatti, malauguratamente rimase incinta di lei, cosa vuole da lei? Infatti. Ma dica così, infatti. Mamma, le mutande te le sei tolte te, mica io, che ci posso fare? Prima o poi troverò il coraggio. No, dica questa frase, guardi, sta finendo la trasmissione, dice Gianluca, cara signora, che le mutande, quel giorno fortunato o sfortunato di tanti anni fa, se le tolse lei, non può averne colpa sua figlia, in fondo qualche piacere l'avrà avuto anche da quell'atto. Ci fermiamo qua, va, che già ho abbastanza maledizione anatemi per aver osato dissacrare la figura della mamma. Alla prossima.